da filtro lunare per evitare danni al sistema diottrico oculare. Riscaldamento globale, crema solare con protezione totale. Tumori alla pelle in crescita esponenziale. La banca centrale non ci impedirà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. E anche se mi restano anche 27 rate da pagare, non voglio ballare al ritmo dell'estate. Sulle autostrade, mezzi da sbarco gonfiabili, dai colori improbabili, lega, sui portapacchi delle automobili, dopo mesi passati a bruciare carboidrati, ora siamo abbronzati e l'emergenza sbarchi non ci impedirà.